Pablo Picasso, raccontato da Salvatore Carrubba. Un grande artista intellettuale milanese, Emilio Tadini, ha dedicato a Picasso pagine importanti nel libro L'occhio della pittura, edito da Garzanti. Qui Tadini prende in esame uno dei capolavori in assoluto dello spagnolo, Le Demoiselles d'Avignon del 1907, che l'autore avrebbe voluto intitolare Le Bordelles Philosophiques. E ricorda le reazioni stupefatte degli stessi amici di Picasso davanti a quell'opera, che parlarono apertamente di follia. Braque, che peraltro proprio da quel quadro cementò la sua amicizia con Picasso, aggiunse che è come se Picasso volesse costringere chi guarda il quadro a bere del petrolio. De Rena arrivò a dire che un giorno o l'altro avrebbero trovato Picasso impiccato dietro il suo quadro. Con quell'opera, aggiunge Tadini, Picasso, esasperando l'eredità di Cézanne, dava espressione alla crisi del suo tempo, perché proprio tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX, l'arte figurativa, così come la letteratura, la musica, la filosofia stessa, fa l'esperienza della crisi e fino in fondo. La sente come fonte di ispirazione, ma allo stesso tempo si sforza di uscire dalla crisi. Così Tadini. Oggi, che nella crisi siamo di nuovo immersi fino al collo, cerchiamo dei nuovi Picassi, ma non ne vediamo all'orizzonte. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it.